Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Watson, sviluppato da IBM, è una delle intelligenze artificiali più avanzate che esistono. La sua caratteristica principale è la capacità di rispondere a domande poste in linguaggio naturale, tanto che alcuni anni fa polverizzò veramente in diretta televisiva i due campioni mondiali di Jeopardy, un gioco a quiz di abilità linguistica molto diffuso negli Stati Uniti. Watson è in grado di memorizzare e maneggiare delle immense basi di dati, sia strutturati come insomma i numeri di una tabella, sia destrutturati come può essere il contenuto testuale di un saggio. E la sua intelligenza è basata sulla sua capacità di riconoscere delle similitudini tra le domande che appunto gli vengono poste e le informazioni che ha immagazzinato al suo interno, che appunto confronta le domande grazie a degli complessi algoritmi di tipo statistico. Intelligenze artificiali di questo tipo possono avere molte applicazioni, ma una delle principali è senza dubbio quella di implementare quelli che vengono chiamati dei sistemi esperti, cioè dei programmi capaci di aiutare per esempio un uomo nella soluzione di un problema, o come nel caso di cui parliamo questa sera, possono fare da tutor a dei giovani medici. Diamo il benvenuto a Raffaello Furlan, che è responsabile della clinica medica Humanitas. Buonasera Furlan. Buonasera. Senta, allora, lì alla Humanitas per la prima volta in Europa entrerà in facoltà, appunto in una facoltà di medicina, Watson, una di queste intelligenze artificiali. Come la userete? Sì, Watson sostanzialmente è un software intelligente che si posizionerà in modo parallelo a quella che è l'azione dei tutor individuali. Il sistema è basato sulla presentazione agli studenti di casi virtuali derivati da una banca dati dell'ospedale costituita da casi reali, ai quali lo studente, come se si trovasse di fronte ad un paziente, certo, in carne ed ossa, fa domande apposite, opportune, fa delle ipotesi diagnostiche che si basano sull'esame obiettivo che ha condotto su questo paziente virtuale, sui risultati di esami di laboratorio che ha chiesto ed eventualmente esami strumentali. Per ognuno di questi passaggi e in relazione alle ipotesi diagnostiche che lui ha fatto ha un feedback da parte del sistema intelligente. Il feedback può essere più o meno restrittivo, quindi un sì o no, giusto o sbagliato, oppure può essere articolato, per esempio la domanda che hai fatto ha poca pertinenza, ha maggiore pertinenza, oppure sì più preciso. C'è un concetto importante che dà la complessità dell'iniziativa, della cosa che ci siamo caricati sulle spalle, e cioè il concetto della domanda a testo libero. Un esempio tipico è questo, che lo studente può chiedere al paziente virtuale: hai mal di pancia? Oppure soffri di dolore addominale. La mente umana sa che si tratta esattamente della stessa cosa, ma allo stesso modo Watson riesce con un'analisi molto sofisticata del testo libero a capire che si tratta esattamente della stessa cosa, anche se la costruzione semantica delle due frasi è diversa. È diversa. Ecco, e Watson naturalmente viene anche addestrato, come dire, no? Per imparare nei vari settori specifici a riconoscere, per esempio, situazioni di questo genere. Voi in questo state anche dando una mano, nel senso non siete solo lì come utenti di Watson? No, tutt'altro. Cioè siete voi che spiegate a Watson che deve considerare equivalenti queste due domande o ci arriva da solo, per capirsi? No, noi lo aiutiamo ad arrivarci da solo, okay, ad impiegare in modo adeguato gli algoritmi di cui dispone, insomma, interpretativi di intelligenza artificiale di cui dispone, certo. Ecco, senta, che cosa vi aspettate dall'introduzione di questo sistema, naturalmente in termini anche di preparazione degli studenti? Come prima cosa aiuta a sviluppare il ragionamento clinico, quindi la metodologia clinica, e garantisce la possibilità che questo ragionamento clinico venga eseguito un numero n di volte fin tanto che lo studente non raggiunge un livello di preparazione che possa essere definito efficace o sufficiente. Cioè c'è una capacità, diciamo, di seguire la preparazione dello studente che non avete con i vostri tutor per ragioni di tempo, di disponibilità, no? Certamente, per una serie di ragioni, perché il tutor è unico, e noi vogliamo fare in modo che rimanga un rapporto di un tutor con i due studenti, ma da gestirsi al letto reale del paziente, quindi vogliamo che lo studente si prepari prima per arrivare al letto del paziente in modo adeguato. Il paziente ideale non può necessariamente avere tutte le caratteristiche pedagogiche, diciamo, o gli elementi che servono per formare lo studente. In questo modo invece noi dovremmo riuscire ad ottenere il paziente giusto al momento giusto per lo studente. E poi soprattutto questo è un sistema di simulazione, quindi lo studente è libero di fare errori senza essere... Fare danni contemporaneamente, certo. Per il paziente, ecco. Grazie professor Furlan. Di nulla, arrivederci. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani.